9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 7 giugno, auguri a tutti coloro che si chiamano Geremia, una puntata in cui dedichiamo ancora una volta la nostra attenzione alle imprese che avanzano richieste di modifiche e di interventi necessari e urgenti per rilanciare l'economia del nostro paese. Ieri il centro studi di Confindustria ha documentato il terreno che stiamo ulteriormente perdendo nei confronti degli altri paesi avanzati. Da quinto paese nella graduatoria internazionale della produzione industriale comparata siamo diventati l'ottavo, la contrazione della nostra fetta di mercato in termini di produzione manifatturiera mondiale è passata dal 4,5% della quota a livello planetario al 3,3%. India, Brasile, Corea del Sud ci hanno sopravanzato, e non è solo questione di paesi emergenti, perché è vero che Cina, India, Indonesia, nei 4 anni che abbiamo alle spalle, sono passati come prodotto manifatturiero mondiale dal 18% al 26,7%. C'è una gerarchia mondiale che viene molto alterata a loro vantaggio in questi anni di crisi, però ci sono anche paesi avanzati di, come dire, vecchia industrializzazione come noi, che in realtà reggono molto meglio di noi all'urto della crisi. Il Giappone, malgrado il terremoto, lo tsunami e la rinuncia dell'energia atomica dell'anno scorso, il Giappone resta terza potenza manifatturiera, non arretra. La Corea del Sud recupera 2 posizioni, si colloca al 5º posto, e quindi in questa fotografia, e con un PIL che decade quest'anno molto più intensamente di quanto fossero le previsioni, rischiamo un -2,4%, lo ricordo tutti, e questa volta con consumi pro capite che vanno abbondantemente sotto il 3%, quindi con un ordine di grandezza di calo doppio rispetto a quello degli anni 2008-2009, in cui pure perdevamo 6 punti di PIL, ma lo facevamo per il crollo dell'export, mentre oggi chi esporta ed è ben patrimonializzato ed è riuscito a stare sui mercati mondiali nuovi se la passa molto bene. Oggi il dramma è per chi lavora per il mercato domestico, per un mercato interno compresso dalle pretese molto accresciute dello Stato fiscale, dal fatto che lo Stato non paga i suoi debiti e i crediti fiscali alle imprese non li riconosce, e dal fatto che il credit crunch è diventato molto molto più bestiale rispetto a quanto non fosse la condizione bancaria del 2008-2009. Questa è la ricognizione, e prima dei nostri ospiti consentitemi solo un ulteriore accenno, come facciamo abitualmente, per questo teniamo i doors all'eurocrisi. Ancora pressioni e telefonate da oltreoceano agli euro leader perché la Germania sblocchi i suoi no a una federalizzazione del debito pubblico. Delusione ieri, ma anche sollievo dei mercati. La delusione è per il tasso di interesse che la BCE ha mantenuto stidi, non l'ha abbassato, ma il presidente della BCE Mario Draghi ha comunicato al mercato questa decisione dicendo comunque la liquidità è illimitata per questo 2012. È anche una, lo avete sentito al GR, una legnatina in testa ad Obama da parte di Mario Draghi, come dire l'America non ha titolo per farci lezione, visto che poi la crisi viene dall'esplosione delle banche ad alta leva anglosassoni e da Lehman Brothers, mi pare comprensibile. Angela Merkel però ieri in un'intervista alla rete tedesca ARD ha detto che non ci saranno decisioni veramente innovative all'Eurovertice previsto per dopo il voto greco che si tiene il 17 giugno, e questa dichiarazione è chiaramente una dichiarazione che lascia intendere come sulla federalizzazione del debito pubblico, una quota uguale per tutti i membri dell'euroarea, in realtà la decisione tedesca non è affatto né scontata né maturata. Quello su cui si sta lavorando riservatamente in questi giorni, in queste ore, è la possibilità di dare il sostegno alle banche fallite spagnole senza far passare la Spagna per l'umiliazione della Troica, cioè dei tre rappresentanti, uno del Fondo Monetario Internazionale, l'altro della BCE e l'altro dell'Unione Europea, che sono il commissariamento a tutti gli effetti della politica, che è stato riservato invece alla Grecia e che ne ha fatto poi esplodere il quadro politico, perché Mariano Rajoy ha detto: se ci date la Troica, la Spagna esplode. Naturalmente dichiarazioni come quella di Angela Merkel di ieri sono dichiarazioni che giocano sul filo di come i mercati continuino a far capire agli euro deboli che devono fare molto di più invece che limitarsi a chiedere. Ed è ovvio che la pressione di Obama, ma anche di David Cameron, il premier britannico, sulla Merkel avrà ancora qualche settimana. Ricordo a tutti che subito dopo il voto greco, proprio nei due giorni successivi, 19 e 20 di giugno, si tiene un G20, ed è quella la sede nella quale gli Stati Uniti insieme le potenze asiatiche tenteranno disperatamente di evitare che l'uscita della Grecia dall'euro a tutti gli effetti avviti ulteriormente una frenata mondiale di cui si vedono tutti gli effetti anche nei paesi emergenti. Se andate a vedere come il Bild, un giornale molto popolare che arriva fino a 10 milioni di lettori in Germania, oggi presenta tutto questo quadro, trovate un editoriale di Nikolaus Blom che sintetizza la faccenda dicendo: i tedeschi dovranno ancora una volta pagare per tutti. È il vice direttore del Bild a firmare questo commento, e fa capire poi su quali basi si fondi un sostegno che nei sondaggi tedeschi arriva fino all'80% nel dire: cara Merkel, non devi assolutamente mollare la presa. Dalla Francia la conferma che Hollande davvero pensa di abbassare l'età pensionabile a 60 anni, sia pure con una quota a fette nei prossimi anni, non facendo una riforma da oggi in avanti che vale per tutti, ma per quote, cioè si tratterebbe di 110.000 francesi ogni anno che maturerebbero questo diritto se hanno iniziato a lavorare a 18-19 anni e quindi hanno almeno 40 anni di contributi. E nel qual caso si abbasserebbe l'età che Sarkozy aveva alzato anche per ora a 62 anni e si abbassa a 60, quindi andando in totale controtendenza rispetto a tutte le riforme chieste ai sistemi previdenziali nell'euroarea e soprattutto nei paesi che naturalmente sono sottoposti a programma coatto di recupero. Ecco perché Wolfgang Münchau nel suo nel commento che scrive per Spiegel, per la parte online in inglese, parla di Eurodammerung. Naturalmente il Dammerung sta per il Götterdämmerung, il crepuscolo degli dèi che diventa il crepuscolo possibile dell'euroarea. Speriamo di no. Allora, cominciamo con uno dei punti che descrive le difficoltà crescenti delle imprese sul mercato domestico italiano, quello appunto dei mancati pagamenti dello Stato, del debito commerciale dello Stato e della stentata via dei provvedimenti governativi intorno alla missione da parte delle imprese alla certificazione bancaria del debito commerciale dello Stato o per la compensazione fiscale. Abbiamo con noi Ivan Malavasi, che è il presidente del CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Buongiorno presidente Malavasi. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Allora, dal punto di vista dell'iter dei provvedimenti, ci sono annunciate modifiche eccetera eccetera, ci può fare un quadro generale di che cosa sta realisticamente cambiando nel testo del governo, che cosa invece bisognerebbe chiedere e ottenere ancora di cambiamento perché queste misure da annunciate diventino veramente operative? Perché il giudizio che noi abbiamo dato all'inizio era che ci sembrava veramente troppo poco, una goccia nell'oceano, sia sull'ammontare sia sulle procedure richieste alle imprese. Qualche settimana dopo l'annuncio, a che punto siete nelle trattative col governo? Beh, diciamo che qualche passo avanti è stato fatto, mancano ancora secondo noi qualche ritocco possibile, ma insomma adesso il problema è anche di chiuderla, altrimenti non renderemo mai fruibile una cosa che le aziende invece ne stanno veramente pendendo da questa decisione. Diciamo che la novità che è stata introdotta ieri intanto è che riguarda tutto il paese e non solo una parte. Lei sa che la certificazione, dalla certificazione venivano escluse le regioni che non rientravano dentro al patto di stabilità rispetto al deficit sanitario: Piemonte, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, quindi metà paese era fuori. Questo è stato superato ed è un giudizio, come dire, un giudizio positivo. Devo dire che il decreto, così come si presenta dopo tanti incontri fatti assieme a Rete Impresa Italia, Confindustria, Alleanza delle Cooperative ABI, insomma comincia ad avere qualche credibilità in più. Poi è vero quello che dice lei, che forse è una goccia nell'oceano, ma è una goccia importante, perché prima non c'era neanche quella. È difficile riuscire a pagare 70 miliardi quando non ci sono. Diciamo che questo decreto dovrebbe avere un grande merito, intanto di avviare un procedimento che elimina progressivamente lo stock del debito verso le imprese, e dal 1 gennaio 2013, se gli impegni del decreto, nei presupposti del decreto rimarranno vincolanti, il decreto prevede il recepimento della norma europea sul pagamento 60 giorni pubblici e privati entro il 31/12 del 2011, quindi dal 2013 dovremmo uscire da quella gabbia che continua ad alimentare il debito pubblico verso le imprese. Quindi un quadro, come dire, che riteniamo ancora un po' complicato, ma si fa sempre più preciso. La certificazione è chiara, che ha dei tempi, ha un limite secondo noi la fruibilità, che mette una zeppa ancora rispetto alle somme iscritte a ruolo, e ne capiamo la ragione, per evitare che uno non paghi per poter andare a iscrivere a ruolo e quindi vantare i crediti. Però se c'è una cautela, ci pare eccessiva che la data di partenza di questa operazione rimanga aprile e non invece fino alla data in cui avviene la certificazione, almeno come minimo. Insomma, alcune opacità ci sono. Alcuni segnali positivi rimangono, e sono quelli di non rinunciare, non è una novazione di un contratto, quindi non rinuncia l'imprenditore a nessun diritto, è libero di accedere a quello strumento come di non accedere. Se accede rimane comunque libero di fare azioni giudiziarie qualora ne ritenesse opportuno nei confronti del proprio debitore. Insomma, un decreto che può, per chi ne ha bisogno, chi lo valuterà compatibile con i costi che ha questa operazione, che è evidente che non è il pagamento, è un meccanismo che mette in condizioni di essere anticipato dei soldi da parte delle banche, stabilendo due plafoni importanti, uno del medio credito, una delle banche che finalmente mettono un po' di soldi di tutti quelli che hanno preso, ne hanno preso tanti, lo sappiamo tutti, dall'Europa. Le banche mettono un fondo di 10 miliardi, un fondo significativo nel fondo di rotazione per le garanzie dello Stato. Insomma, questo consente alle imprese di non rimanere loro i garanti nei confronti del debito, che era la cosa che ci preoccupava di più. Insomma, luci ed ombre, però sicuramente se lo votano, lo votano fino in fondo rapidamente, manca un pezzetto che speriamo, oltre al procedimento amministrativo dentro al Parlamento, legislativo dentro il Parlamento, manca ancora un pezzettino nell'incontro con la Conferenza Stato-Regioni, perché alcuni pezzi riguardano la sottoscrizione di questo decreto legge, di questa legge, per alcuni sono quattro pezzi che vanno congiunti, che speriamo venga in tempi brevi, perché se continuiamo a discutere a lungo, anche se non è ciò che servirebbe, ma servirebbero i soldi, ed è un sogno per questo paese, purtroppo i soldi non ce li ha, da mettere sul piatto subito. Insomma, è un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, noi pensiamo che sia decisamente mezzo pieno, e dentro contiene un elemento che da anni e anni le imprese lo sollecitano, che era la compensazione tra i debiti e i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Insomma, fatti positivi, c'è un impegno entro il 2013 di arrivare a inserire anche l'IVA per cassa, insomma quattro decreti che a regime dovrebbero davvero rialimentare un po' di risorse in imprese che in questi giorni per varie ragioni, per il mercato, per le cose che diceva lei, il quadro internazionale, la crisi che è più under di quella che sembrava, i consumi che crollano ancora di più, insomma, per tutte le cose che lei ha squisitamente raccontato, io credo che sia una boccata importante, forse non sufficiente, ma importante per riprendere un po' di fiducia, che è una forse dei drammi più grandi che hanno gli imprenditori, ma forse anche tutti i cittadini di questo paese, di, come dire, essere scoraggiati di fronte a una ripresa del paese, che invece io penso ce la debba fare, le condizioni per farlo, uomini e donne, imprenditori, imprenditrici di altissimo livello e di grande volontà. Allora, io riconosco volentieri, e per questo abbiamo chiesto al presidente Malavasi di CNA di spiegarcelo, che in queste settimane effettivamente alcune almeno delle caratteristiche più negative al primo esame dei provvedimenti, delle quattro misure annunciate dal governo, sono venute meno grazie all'impegno coeso di tutte le associazioni dell'impresa, perché per esempio far venir meno la norma iniziale che il governo aveva scritto sul fatto che per accedere alla certificazione bisognava spogliarsi, rinunciare autonomamente al diritto di avere un titolo esecutivo in tribunale nei confronti del debitore, lo Stato che non pagava, questo è un passo avanti sostanziale, significa ritornare cittadini e non essere più sudditi, per così dire, nei rapporti dello Stato. Restano ancora alcune cose, una di queste per esempio è, come sa chiunque abbia un debito commerciale e che abbia che sia stato generato allo Stato dalla prestazione, dalla vendita di un bene, di un servizio, si viene tassati, perché in questo caso il regime fiscale prevede che è come se tu avessi incassato tutti gli effetti, e purtroppo questo resta una delle questioni su cui eventualmente trattare. Possiamo capire la stima del presidente Malavasi, secondo lei, rispetto all'ammontare totale, nei tempi, se questo provvedimento viene a questo punto votato presto, ma nei tempi, per le imprese, su cosa come ammontare si può contare, in che tempi, visti i tempi medi delle procedure che sono previste per le certificazioni, secondo lei? Guardi, le certificazioni intanto hanno al massimo 60 giorni e sono obbligatorie e vincolanti. Se non avvengono, avviene attraverso un commissario speciale e con altri 60 giorni. Ma l'effetto della domanda è quello iniziale. Quindi diciamo così che se parte a luglio la mia richiesta, parte a luglio il diritto di essere pagato. La certificazione non è solo una certificazione che dice che c'è quel credito o quel debito, ma dice anche, deve dire anche quando te lo pago, e ha un massimo di tempo di 12 mesi. Con quel foglio in mano, che non è l'incasso, dove vado? Vado in banca e gli dico: io ho una certificazione di un credito verso l'X amministrazione pubblica o servizio sanitario nazionale, me lo pagherà entro la data che lui ha scritto, cara banca, me lo anticipi, quanto costa questa anticipazione? E lì ho due scelte, posso scegliere la strada della controgaranzia dello Stato a costo zero per l'impresa, o posso chiedere anche un prosoluto, che nel senso che io voglio chiudere la partita, avrà un costo sicuramente un po' più elevato, l'unico espositore rimane alla banca rispetto a quel vincolo della pubblica amministrazione, e io porto a casa i miei soldi. Questo lo valuterà rispetto a quanto costa l'imprenditore, se gli conviene o non gli conviene, ed è un fatto, come dire, che se partisse davvero entro questo mese, fossero esecutivi tutti i decreti e gli incontri, noi pensiamo che nel giro di 6 mesi sia realistico pensare di una messa di liquidità nel mondo delle imprese di una ventina di miliardi, quelli diretti e quelli indiretti. Questo pensiamo sia ragionevolmente possibile farlo. Bene, allora io ringrazio il presidente Malavasi, naturalmente noi seguiremo passo passo l'approvazione e poi apriremo le nostre orecchie, le nostre mail, le nostre messaggerie agli imprenditori che ci documenteranno eventuali difficoltà, eventuali delusioni, eventuali problemi nei rapporti con le banche, perché questo sarà un passaggio decisivo ovviamente, e soprattutto anche un monitoraggio degli interessi che una delle due strade, per ciascuna di queste due strade, o per il prosoluto o per il prosolvendo, le banche chiederanno alle imprese, perché quella è la parte che resta naturalmente a carico dell'imprenditore, visto che pagherete un interesse sull'anticipo da parte delle banche dei soldi dovuti dallo Stato. Non lo paga lo Stato, e ovviamente è differente nel caso in cui garante verso la banca siate voi imprenditori, oppure scegliate la strada, che all'inizio non c'era, del prosoluto, in cui quindi è lo Stato che resta con una propria garanzia di un fondo centrale, ma è lo Stato che resta quindi poi esposto nei confronti della banca stessa. Come è ovvio, i meccanismi dell'interesse saranno diversi. Faremo il nostro mestiere. Intanto grazie a Malavasi e ora pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio ed è qui con noi per i pochissimi minuti che ci potrà dedicare, noi di questo molto lo ringraziamo, Roberto Ganzerli, che è assessore all'economia del comune di Mirandola, quindi uno dei comuni epicentro del sisma del 20 e poi del 29, del 29 di maggio. Il Sole Oggi, il Sole 24 Ore, dedica un'apertura di pagina al fatto che una delle maggiori aziende proprio a Mirandola, la multinazionale, la B. Brown Avitum, ha confermato in pieno il suo impegno di mantenere uno stabilimento importante, sono 220 persone, ma l'assessore chiedo semplicemente di darci un flash su la stima che ha dei tempi di stop alle attività produttive del suo comune. B, una cosa che molti ci chiedono dai comuni vicini, a dire la verità non da Mirandola, una stima di come sarà possibile accelerare le procedure previste dalle prime disposizioni per i controlli, per l'agibilità sismica delle attività produttive. Poi terza e ultima cosa, una sua valutazione sulla congruità delle risorse fino a questo punto messe a disposizione di amministrazioni come la sua. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei, grazie per l'intervento che mi concedete. Dunque, noi stimiamo che i tempi di ripresa possano essere di alcuni mesi, perché abbiamo delle situazioni abbastanza complesse e dai rilievi che stiamo facendo purtroppo stiamo constatando che alcune questioni sono più complesse di quello che ci aspettavamo. Per quanto riguarda le procedure, noi abbiamo perso, mi dispiace dirlo, un po' di tempo su un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha dovuto avere una interpretazione che è durata qualche giorno e sembra che oggi siamo arrivati. Tutti ce l'hanno scritto, quindi è proprio così, cioè è andata così. Purtroppo c'è stata questa ordinanza che è stata fatta ad hoc per questa situazione, probabilmente il nostro paese non era preparato ad una situazione di questo tipo, un po' me ne dispiace perché io davo per scontato che si potesse così prevedere che un terremoto potesse colpire una zona così densamente produttiva. Forse nella storia dell'Italia non è mai successo un caso del genere, cioè che un sisma colpisse una zona così densamente produttiva. Sta di fatto che è stata fatta questa ordinanza, c'è un passaggio che parla di certificazione di agibilità sismica e su questo abbiamo aspettato diversi giorni una circolare applicativa e questo sicuramente non ci ha aiutato nei tempi, devo essere molto sincero. Oggi sembra che la soluzione sia stata trovata e quindi contiamo di procedere il più velocemente possibile. Altra questione che noi abbiamo posto molto forte è il numero delle squadre per fare i rilievi, che sono sempre state date un po' con il contagocce. Breaking news. Interrompiamo le trasmissioni per dirvi che due vecchie palazzine sono crollate poco fa nel centro storico di Conversano. Siamo in provincia di Bari, a sud-est di Bari. Il crollo sarebbe avvenuto per una fuga di gas e al momento non si sa se ci siano persone sotto le macerie. Speriamo nell'edizione di GR24 delle 10 di darvi maggiori particolari. Ecco, torniamo, abbiamo interrotto l'assessore Ganzeri per questa breaking news che ci veniva dalla redazione del Giornale Radio. Diceva, per le squadre che vengono concesse col contagocce. Sì, noi abbiamo fatto richiesta a gran voce perché tra le priorità questa è la prima, continua ad essere la prima. Più squadre abbiamo, più il processo di verifica si accelera e più possiamo sperare di ricominciare la nostra vita o di sapere quali sono gli interventi che le varie strutture devono avere e devono subire per tornare ad essere agibili. Soprattutto per quanto riguarda il produttivo, l'ordinanza fa riferimento a tecniche vigenti, a norme tecniche vigenti, quindi insomma anche interventi di una certa portata. Sulle le quali noi non abbiamo niente da dire, perché lo scenario del nostro territorio è completamente cambiato e quindi servono altri parametri. Un'ultima cosa, se mi è concesso. Ma no, sempre su questo però, scusi, ma l'ordinanza non apre alla possibilità di verifiche per l'agibilità sismica compiute da messa a disposizione di personale da parte degli ordini professionali estranei all'amministrazione pubblica? Esatto. Ma questi ingegneri certificano l'agibilità sismica se sanno che cosa devono fare. Esatto. E questo è il punto, perché fino a che non è chiarito questo, loro non hanno i parametri per poter capire il grado dell'intervento che devono giudicare. E vabbè, è come al solito, lo Stato ci fa pagare la sua improntitudine, il fatto di... Io le chiedo una cortesia, sì, se dica. Posso. Ci tenevo molto a fare questo passaggio. Noi abbiamo interrotto il lavoro che stavamo facendo sul piano strutturale comunale, quello che era il vecchio piano regolatore, per capirci. Dove già avevamo messo alcuni parametri molto importanti, meno uso del territorio, più qualità nei principi costruttivi, l'uso del materiale, un nuovo rapporto tra città e campagna. Oggi abbiamo uno scenario completamente diverso. La tragedia che ci ha colpiti ci offre una grandissima opportunità, e cioè di vedere la città con le sue ferite, ma con una prospettiva di ricostruzione completamente nuova. Io vorrei evitare di correre il rischio di ricostruire la città con gli stessi difetti che aveva prima. Certo. Adesso io non voglio fare dei paragoni irriverenti, per l'amor del cielo, però mirandola si potrebbe candidare a diventare la Berlino dell'Emilia-Romagna. Abbiamo la possibilità di costruire e di ricostruire senza fare gli errori del passato, con una prospettiva completamente diversa. Quindi, benissimo, noi abbiamo bisogno delle risorse economiche, sia chiaro, abbiamo le gambe spezzate adesso, e se non ci arriva quello che ci serve in termini di contributi, noi non riusciremo mai a rialzarci. Ma al di là di questo, che non vorrei che risultasse o suonasse come un discorso abbastanza scontato, noi abbiamo bisogno anche di molte idee. Certo. Io sono convinto che se noi riusciamo ad essere progettualmente attrattivi, cioè ad avere dei progetti, possiamo attirare investitori sul nostro territorio. Quindi, al di là di quello che può essere il contributo per la ricostruzione, vorrei che la mia città si orientasse soprattutto a questo, ad essere attrattiva per avere progetti importanti che a loro volta possono attrarre capitali. Ed è sicuramente non solo l'augurio, ma anche, diciamo, una relativa certezza che milioni di italiani nutrono nel fatto che in questa parte d'Italia si sappia immediatamente trasferire quello che è stato un colpo durissimo in termini di vittime, in termini di danni economici, anche in un'occasione di ripensamento, di ridefinizione dei criteri attraverso cui, non solo quelli sismici ovviamente di cui bisogna tenere conto, ma dei criteri urbanistici e di integrazione delle attività produttive rispetto al patrimonio territoriale, ambientale e culturale che nella vostra zona è così denso. Auguri e grazie all'assessore di Mirandola. Allora, una storia adesso che ci ha colpito, delle tante lettere che continuate a mandarci alla mail di disperatimai@radio24.it, che è il fiume carsico che sta attraversando in questi mesi la nostra vita, qua di la mia è quella di Barisoni, quella del direttore Tamburini, dei colleghi del Giornale Radio, perché le migliaia e migliaia di mail che ci avete mandato ci hanno restituito un quadro delle difficoltà con cui milioni di italiani sono alle prese nelle loro piccole imprese, che spesso ci fa sentire col cuore dolente e probabilmente anche dei piccoli privilegiati, perché le sono storie davvero di drammi e sofferenze personali nei confronti dei propri collaboratori, dei propri dipendenti, dei propri familiari, di fronte alla perdita dell'onore. Ma abbiamo voluto scegliere oggi una storia che è di tipo diverso, perché parla da sola, cioè fa capire come e perché l'Italia, l'avete sentito anche in occasione dell'ordinanza sul sisma, fa l'ordinanza e poi bisogna aspettare giorni per capire che cosa davvero c'è scritto nell'ordinanza sismica. E lo avete visto per la certificazione dei debiti commerciali e dei crediti fiscali, quanta testa ci è voluta in queste settimane per ottenere di non essere trattati da sudditi ma da cittadini. A proposito, tornerò a ripeterlo tutte le mattine, leggete davvero il libro Sudditi, edito dall'IBL, l'abbiamo presentato lunedì ospitando Nicola Rossi, che è il coordinatore e il prefattore del libro, ed è un libro che ci siamo sforzati come Istituto Bruno Leoni di offrirvi per farvi riflettere su come nel rapporto fiscale, nel rapporto legale, nella tutela mancata dei nostri diritti, la trasformazione che è avvenuta da decenni e che ci rende sudditi e non più cittadini è qualcosa su cui dovete profondamente riflettere. Vedrete voi poi che scelte fare alle prossime elezioni, non farle, fate come volete, ma il problema è che abbiamo tutti chiaro che dobbiamo reimpossessarci di una tutela dei nostri diritti come individui, come persone, come famiglie, come imprenditori, come lavoratori dipendenti, che ci è stata levata da un ordinamento che riconosce solo a se stesso la possibilità di tutelarsi, solo a se stesso riconosce la possibilità di non pagare, non avere neanche la contabilità dei propri debiti. Da noi chiede sempre solo di più, ed è un ordinamento che a furia di trattarci da sudditi vi ha messo in testa che è giusto così, perché ha ragione lui, perché invece è chi vuole protestare che è fuori dall'etica pubblica, capite? Allora, bisogna riflettere su tutto questo. Leggete quel libro, lo potete trovare oltre che nelle librerie in formato ebook, sia su Amazon sia su eBooks Italia, sia su eBookizzati, quindi potete da subito ordinarlo e riceverlo. Se aveste qualunque problema mandate una mail anche a me o giannino@yahoo.com, e oltretutto fate subito il conto delle tasse che dovete pagare. Se andate sul sito www.costodellostato.it c'è un esercizio contabile che vi abbiamo messo gratuitamente a disposizione insieme al contatore del debito pubblico, che trovate sempre sul mio blog www.chicagoblog.it, che io metterei in faccia al Parlamento, lo metterei a Piazza Montecitorio di fronte al Senato, e perché finché non si ferma quella roba lì sono tutte chiacchiere e palle che stanno facendo il loro dovere. E avete anche la possibilità, se andate su www.costodellostato.it, di fare un esercizietto su quanto nella vostra vita residua media e sul vostro scaglione di reddito lo Stato vi chiederà, e che cosa vi darà in cambio, e che cosa in media dei paesi europei sarebbe in realtà costato molto meno per ottenere gli stessi servizi. Abbiamo questi tre elementari criteri sui quali ciascuno può innanzitutto reimpossessarsi di una cosa che altrimenti lo Stato non ti mette in condizione di fare, perché lo Stato non ti consente nessuna pianificazione fiscale. Pagherai solo dopo aver pagato, capirai quanto hai pagato di tasse, mentre noi vi diamo la possibilità di riflettere su quello che ci costa questa specie di baraccone Moloch che pretende lui di essere il depositario di una etica pubblica che viola tutti i giorni. Invece è la storia di questo imprenditore che vi proponiamo, una storia che parla da sola su come altrove ci si comporta per attirare e facilitare l'impresa rispetto all'Italia. E con noi Davide Ferrari, e io lo ringrazio, e che abbiamo chiamato per la lettera che ci ha mandato. Buongiorno, ci racconti la sua storia allora. Allora, praticamente nell'ottobre del 2011 mi recai a Dublino per raccontare, diciamo, per vivere un'esperienza di aziende di start-up nella New Economy, ma e lì praticamente conobbi la realtà di agenzie governative che stavano cercando di attrarre gli investimenti nel loro paese. Fu così che andai un giorno presso una di queste agenzie governative e feci una domanda molto banale alla reception, e dissi che volevo aprire un'attività in quel paese. E la segretaria, diciamo, della reception mi fece accomodare e subito mi vennero a incontro due persone che mi portarono in una reception e mi portarono in una sala conferenze, e mi fecero praticamente un colloquio di 2 ore e mezzo nel quale mi spiegarono tutti i benefici, tutte le possibilità che si potevano avere in quel paese, e parliamo dell'Irlanda appunto. È un paese che comunque attraversa una crisi più o meno simile alla nostra. E quindi le spiegarono per esempio la possibilità di fare qualche conto sulla pianificazione fiscale, le hanno spiegato che tasse avrebbe pagato. Esatto, illustrarono tutti quelli che sono i benefici di tipo fiscale, i benefici per quanto riguarda anche il discorso della ricerca sui brevetti, esenzione delle tasse ad esempio sui proventi della ricerca scientifica. Ma la cosa più importante è che a me colpì moltissimo fu che mentre uno di questi faceva tutta la presentazione, Vi erano accanto altre persone che si stavano già cercando su internet delle possibili sedi, dei possibili uffici, e quindi mi illustrarono a fine del colloquio tutta una serie di possibilità, di indirizzi a cui rivolgermi, a cui diciamo far riferimento anche a nomi di persone. E altra cosa che mi colpì è che dopo che mi invitarono a fare questo giro di incontri e di telefonate, di rivedersi anche a pranzo, al bar praticamente sotto l'agenzia, e discutere un po' di come erano andati i vari appuntamenti. Allora, questa è un'agenzia governativa, sì. Si chiama Investment Development Ireland. Questa è la capacità di un paese che è in crisi, perché aveva una grande bolla immobiliare e bancaria, che però non ha alzato le tasse, ha diminuito le spese, e quando si presenta qualcuno che non è mandato da nessun politico né italiano né locale né europeo, che non si è fatto precedere da mail o da richieste di appuntamento, si presenta lì, trova gente che gli fa immediatamente la pianificazione, eccetera, chiede che impresa è, con collaboratori che si mettono a cercare, ma quanti dipendenti hai, dove potremmo metterli, questo puoi fare, e gli dice torna domani e facci sapere. Esatto. Allora, c'è bisogno di commentare per chiunque sia in ascolto questa testimonianza che ci dà Davide Ferrari, lo ringraziamo. No, non c'è bisogno di commentare, c'è bisogno semplicemente di sapere che come è possibile altrove, è possibile anche da noi. Che chi dice che quella è una cosa che non esiste o ignora il fatto che così va avanti il mondo per riprendersi dalla crisi, perché l'Irlanda è la presa con una crisi durissima, ma resterà con un tasso di crescita enormemente superiore al nostro, proprio perché adotta queste procedure pubbliche. Quindi io ringrazio Davide Ferrari per averci dato testimonianza di questa cosa, e vi ricordo che invece nei provvedimenti di cui siamo in attesa questa settimana di sostegno alle imprese, quelli di cui Passera parla incessantemente tutti i giorni, è sparito il credito alla ricerca fiscale, è sparito quello dato col contagocce e con la procedura barbara del click day alle imprese, e in cambio c'è un credito per l'assunzione di personale altamente qualificato da parte delle imprese, che non ha affatto gli stessi effetti di sostegno alla crescita e che naturalmente ha una dotazione finanziaria assai inferiore, oltre al fatto che non si capisce perché incentivare la gente ad assumere personale molto ben formato, che è interesse naturale delle imprese, è una maniera per levare quel poco, quella goccia che c'era di sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica nell'impresa, dopo che già l'anno scorso il governo aveva detto che bisognava farla obbligatoriamente solo nelle università pubbliche. Quando parlo di stato ladro so di cosa parlo, non perché perdo la calma, perché voglio fare demagogia, è ladro, è intrinsecamente ladro, e approfitta del fatto che ve la fa sotto il naso e voi avete altro da fare, pensare purtroppo al vostro reddito che diminuisce, per rendersi davvero conto di quanto sia instancabilmente ladro. Ora strade 9 in punto, la versione di Oscar. Ed eccoci tornati coi Doors. Di cosa vogliamo parlare poi? Di queste splendide nomine fatte ieri dal Parlamento per l'AGCOM e per l'autorità della privacy? Vogliamo parlare della distanza siderale e incolmabile che i politici dei vecchi partiti mostrano, sia pur dopo le sberle che gli italiani gli hanno potentemente assestato alle amministrative? Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. E vabbè, e continuassero a nominare, invece che tecnici, vicepresidenti della Camera o ex presidenti di gruppi parlamentari. Credono che questa sia la politica. Io sono convinto che la politica è fatta innanzitutto, se deve nominare dei membri di autorità di settori del mercato così importanti, di qualcuno che ne sappia almeno lontanamente qualche cosa. Altrimenti lo Stato diventerà ancora più ladro, perché risponderà a logiche che non sono quelle di una tutela dei principi e delle norme che devono invigilare su quel settore molto importante, visto che si tratta di Rai Medias da una parte della televisione, ma soprattutto della banda larga, ma faranno solo gli interessi di cricche di partito. Basta che sia chiaro che così continuano a comportarsi i vecchi partiti. Sentiamo un po' di telefonate, cominciamo con Andrea da Padova. Prego Andrea. Grazie, salve dottor Giannino. Io sto ascoltando la trasmissione e mi ha fatto riflettere un attimo il punto in cui ci sono soldi a disposizione delle banche, data dalla Banca Europea per le piccole e medie imprese, e bisogna mettere in piedi questo protocollo, questo modo di erogare il denaro attraverso un sistema difficilissimo, dove in realtà questi soldi sono già a disposizione. Mi spiego meglio. Perché ci deve essere questo protocollo di lavoro quando lo Stato deve chiedere avalli mentre i soldi sono già a disposizione delle banche. Guardi, io aggiungo che tra le proposte non recepite, prima ancora che il governo mettesse a mano alla stesura di questi quattro provvedimenti per saldare almeno parte dei propri debiti commerciali, per riconoscere alle imprese i crediti fiscali vantati dalle imprese, noi proponemmo, dico noi, no Giannino al plurale, ma sta chi vuole che sia io, le associazioni delle imprese, proponemmo al governo di mettere mano immediatamente sia per le garanzie, per gli anticipi bancari, sia per la compensazione in termini di cassa dei crediti fiscali a Cassa Depositi e Prestiti, che ha un'ingentissima liquidità attraverso la raccolta postale e che soprattutto non fa deficit e debito pubblico aggiuntivo secondo le norme Eurostat ed Eurosec. Quindi anche a mio giudizio, invece di mettere in piedi tutto questo ambaradan per arrivare probabilmente a una decina di miliardi, se tutto va bene l'anno prossimo, all'inizio dell'anno prossimo, c'è la possibilità di fare 70 miliardi più 30 di crediti fiscali, quindi 7 punti di PIL di liquidità immediata, che secondo me avrebbero cambiato molto significativamente la durezza della crisi in corso. Però il governo non ci ha dato retta e quindi che cosa possiamo fare? Purtroppo è così. Matteo da Bergamo, prego Matteo. Salve, grazie per l'intervento, complimenti per la trasmissione. Io telefono da Bergamo, sono un privato cittadino, però faccio parte di un comitato nazionale. Io devo denunciare quello che a tutti gli effetti è un crimine sociale gravissimo. Qua abbiamo persone che si suicidano. Le faccio una sintesi velocissima. La Banca Centrale Europea stampa moneta gratis, le dà alle banche all'1%, le banche lo danno alle imprese al 5-6% come prestito. Qui abbiamo un terremoto, noi in 6 mesi risolviamo il problema del terremoto, ricostruiamo le case, ricostruiamo le infrastrutture, ricostruiamo le industrie, diamo da lavoro alla gente che è lì e che non aspetta altro di lavorare. In un modo semplicissimo, lo Stato stampa moneta senza nessun debito, senza nessun aumento delle accise, senza nessun aumento delle tasse, e rilancia il potenziale produttivo, il potenziale lavorativo, il potenziale professionale che già esiste, è già presente, ha bisogno di essere semplicemente attivati. Invece lo Stato, se è Stato, se ha una funzione sovrana, ha il dovere di far questo e non di indebitare ulteriormente i terremotati dando denaro a prestito creato a costo nullo dalle banche. Questo è un crimine sociale che sta avvenendo sotto i nostri occhi, continuiamo a denunciarlo, continueremo a denunciarlo finché la gente di buon senso lo capirà e agirà conseguentemente. Grazie Matteo, in effetti l'idea che capite che i terremotati per ripartire con i soldi a bassa liquidità, a bassissimo tasso, tasso negativo che ci sono, debbano pagarci un interesse sopra è appunto una di quelle cose che fa a pugni con il buon senso. Leggete Sudditi, compratelo su Amazon e ricordate, abbiamo la testa dura, lo Stato ladro, un giorno o l'altro si piegherà, sapete perché? Perché fallisce prima e noi dovremmo dargli una mano a smettere, tassicodipendente, a smettere con la droga, che sono le nostre tasse, i nostri soldi sono finiti, appuntamento a domani. Radio 24, la passione si sente. Verde Dentro, nuova elettricità per il tuo lavoro. Repower, l'energia che ti serve. Vi ha presentato 9 in punto, la versione di Oscar.